La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato alla marcia dei 40.000, momento culmine della stagione di lotta operaia a Torino nel 1980. Ospite ai nostri microfoni Guido Krainz, autore del Paese mancato, dal miracolo economico agli anni Ottanta, edito da Donzelli. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Da un lato la Fiat decisa a imporre la linea dura dei licenziamenti e della cassa integrazione per far fronte alla grave crisi che aveva colpito l'economia e l'industria italiana alla fine degli anni 70. Dall'altro gli operai pronti a rispondere con scioperi e blocchi a oltranza. Nel mezzo quelli che vennero definiti i colletti bianchi, vale a dire i quadri intermedi che decisero di far sentire la loro voce per affermare il diritto al lavoro. Il tutto avvenne in 35 giorni. Tanto bastò per cambiare in modo radicale il volto delle relazioni industriali nel nostro paese. Sono passati 30 anni da quella che è passata alla storia come la marcia dei 40.000. L'intera vicenda segnò una dura sconfitta del sindacato dopo la lunga stagione delle rivendicazioni operaie che avevano preso avvio con l'autunno caldo della fine degli anni 60. Il 31 luglio del 1980 Cesare Romiti subentra a Umberto Agnelli nel ruolo di amministratore delegato della Fiat. Parte l'offensiva d'autunno. L'11 settembre vengono annunciati 14.469 licenziamenti su un totale di 24.000 lavoratori in eccesso. La risposta operaia alla Fiat di Mirafiori è durissima. CGL, CISL e UIL temono l'annientamento delle conquiste dei lavoratori. Il 27 settembre cade il governo Cossiga e la Fiat blocca i licenziamenti, annunciando però al tempo stesso la cassa integrazione a zero ore per tre mesi di 24.000 lavoratori a partire dal 6 ottobre. La risposta del Consiglio di Fabbrica di Mirafiori è una mozione che dà il via al presidio di tutti i cancelli e chiede alle confederazioni di proclamare uno sciopero generale. Dai primi giorni di ottobre, davanti agli stabilimenti Fiat, è impossibile per chiunque entrare in fabbrica. Il 14 ottobre del 1980, il coordinamento dei capi e quadri della Fiat convoca un'assemblea al Teatro Nuovo di Torino. I colletti bianchi non si limitano a discutere. Dal teatro esce un corteo silenzioso che percorre le vie cittadine. L'impatto simbolico è evidente. I 40.000 sfilano in silenzio, con pochi cartelli, procedono con ordine per le vie del centro, con le loro giacche, le cravatte, i soprabiti. Nessuno, nei sindacati, nei partiti politici, lo avevano previsto. Luigi Arisio, allora giovane quadro aziendale della Fiat, era il leader della protesta. 35 giorni della vertenza Fiat di allora hanno rappresentato per l'economia non soltanto dei lavoratori, operai, impiegati, dirigenti Fiat che se ne stavano a casa ormai da un mese senza stipendio, ma per l'intera economia torinese e di tutta la sua cintura, con profondi riflessi anche nell'Italia intera, rappresentava veramente un punto di non ritorno ove non si fosse provveduto a fermare quella follia. La marcia dei 40.000 è stata una risposta innanzitutto democratica, perché non c'era una bandiera, non c'era uno striscione al di fuori dei nostri cartelli che dicevano: Novelli, fai aprire i cancelli. Abbiamo in linea il professor Guido Krainz, autore di vari libri, tra cui uno in particolare citiamo oggi, Il Paese mancato, dal miracolo economico agli anni Ottanta. Il professor Krainz è docente di storia contemporanea all'Università di Teramo. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. In quale contesto, professore, lei si è occupato in una parte del suo libro proprio di questa vicenda della marcia dei 40.000? In quale contesto storico-politico si colloca questo evento che ha, lo abbiamo appena detto, cambiato il volto delle relazioni industriali nel nostro paese? Beh, 1980 è un anno di svolta in generale e non solo italiano. Tenga conto che in quello stesso anno, sempre restando al tema del movimento operaio, del movimento sindacale, esce in Francia un libro di André Gorz che ha come titolo Adieu au proletariat, addio al proletariato. La Fiat chiude un'epoca non solo in Italia, ma altri operai ne avevano appena aperto un'altra, in un'altra parte d'Europa, operai che si erano riuniti per la prima volta in una chiesa gotica, la chiesa di Santa Brigida ad Danzica, e che considerano le bandiere rosse non le proprie bandiere ma quelle del nemico. È il movimento di Solidarnosc e si avvia la strada che porta al 1989. Quadro internazionale segnato in quei mesi fra 79 e 80 da eventi che possiamo solo evocare prima di tornare all'Italia: la rivoluzione di Khomeini, l'invasione dell'Afghanistan, voi capite le conseguenze che questo ha, il fondamentalismo islamico e tutto il resto, l'avvento della Thatcher in Inghilterra e di Reagan in America. Una svolta generale. In Italia abbiamo si intrecciano due cose. Da un lato esplode la crisi della Repubblica su diversi versanti. Da un lato proprio il 1980 vede il culmine e al tempo stesso la fine, l'inizio della fine del terrorismo. Tenga conto che in questi tre anni, 78-80, sono più di 80 le vittime del terrorismo di sinistra. In quel 1980 c'è anche la strage neofascista di Bologna, 85 vittime, 8 vittime uccise dai neofascisti del NAR e così via. È però l'inizio della fine per i blitz del generale della Chiesa, per l'inizio delle confessioni dei pentiti che portano alla fine del terrorismo. Quindi in questo foschissimo e cupo dal punto di vista del terrorismo 1980 inizia anche la fine. C'è però anche un altro male della Repubblica che non finirà presto e che anzi lascerà segni, di cui proprio quei mesi ci danno dei segnali forti. Del 1979 è la tangente Annie Petron, la madre delle tangenti, diciamo, per certi versi. 1980 è segnati da scandali fortissimi, dagli talcasse ai petroli. Italo Calvino scrive uno straordinario apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, che inizia così: c'era un paese che si reggeva sull'illecito. Sempre in quei mesi noi registriamo un'escalation mafiosa che non ha precedenti. Per la prima volta abbiamo assassini eccellenti, non appunto cioè persone di un qualche rilievo. Del 79 il vicequestore di Palermo Boris Giuliano, nell'80 Piersanti Mattarella e così via, insomma arriviamo all'82 di La Torre e dalla Chiesa. Sulla politica anche una svolta, abbiamo segnali forti di svolta. Muoiono due padri della Repubblica in quel 1980, Pietro Nenni e Giorgio Amendola. Craxi assume il pieno controllo del Partito Socialista e con il preambolo inizia un'altra fase. Soprattutto nelle regionali del 1980, per la prima volta dal 1946, i votanti italiani scendono sotto il 90%. Ecco, in questo contesto come si inserisce appunto la marcia dei 40.000? Ma la marcia del 40.000 in qualche modo segna la fine dell'epoca, cioè questo ci introduce insomma al secondo grande nodo che riguarda non solo l'economia ma anche la dimensione culturale, gli immaginari collettivi. Insomma, da questo punto di vista la marcia dei 40.000, la sconfitta sindacale alla Fiat, non è solo la sconfitta degli anni 60 e 70, la fine della grande industria, l'inizio e quindi il via libera sostanzialmente all'industria del sommerso, ai distretti e così via. È anche la fine, per certi versi, coincide, perlomeno i processi si intrecciano, vi sono diversi versi, con la fine della dimensione collettiva e l'affermazione di valori individuali, la fine dell'ideologia e l'affermazione dell'edonismo. È l'anno del riflusso, per così dire. Sì. Erano eventi già intrecciati. Tenga conto che il cupissimo 1978 dell'assassinio di Aldo Moro è anche l'anno in cui trionfa da noi un film che ha appunto di John Travolta, che ha come titolo appunto La febbre del sabato sera. Nel 1980 esce un libro importante di vari autori che ha come titolo Il trionfo del privato. È l'esplosione di quello che si chiamò l'individuale, l'effimero, ma che di effimero aveva molto poco. Tenga conto che quando parliamo dell'irruzione di una nuova economia parliamo di moda, di della borsa, dell'esplosione della borsa, che è di quell'anno, delle televisioni private. La moda è un anno simbolo degli anni 80, 70 e in quell'anno Richard Gere veste Armani in un film famoso, American Gigolo, ma la moda è tutt'altro che effimero, significa l'esplosione dei distretti legati a quell'industria e così via. Nel 1980 inizia le trasmissioni Canale 5, corri a casa in tutta fretta, c'è un biscione che ti aspetta, e appunto all'interno delle televisioni vi è una cultura nuova. Credo che Federico Confalonieri abbia colto bene questo passaggio, dicendo: noi avevamo grande successo nonostante non avessimo il telegiornale, ma proprio perché non ce l'avevamo. Cioè, la gente voleva uscire dalla cupezza degli anni 70, la politica, la cupezza degli anni 70, volevano essere alle spalle. C'è una canzone di quegli anni, un po' bruttarella, Sabato Italiano, che diceva: sì, il peggio sembra, è un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. Ecco, nel 1980 si comincia a respirare l'idea che il peggio sta alle spalle e il rifiuto della dimensione collettiva si intreccia con il recupero o la scoperta o su nuove dimensioni di appunto della dimensione del privato. Esce un libro come Innamoramento e amore di Alberoni, che è un po' il simbolo di questi aspetti. Insomma, iniziano gli anni 80, esce una rivista come Capital. Lo dicevo già prima, il 1980 è l'anno dell'esplosione delle azioni di borsa, il 1979 era stato l'anno dei bond. Insomma, in qualche modo inizia a delinearsi quello scenario degli anni 80 che costruisce, a mio avviso, l'ossatura anche dei nostri anni. Dalla sua dettagliata ricostruzione di quello che accadde esattamente nell'80 e anche un poco prima, mi sembra di cogliere numerose similianze con la realtà che stiamo vivendo di questi tempi. Sbaglio o è proprio così? Beh, io credo che inizi allora il processo che porta all'oggi, che inizi un processo che ha varie potenzialità e vari attori. Personalmente credo che oggi viviamo che l'esito di quel processo sia l'esito al peggio, che non necessariamente il processo avviato allora avrebbe dovuto portare su diversi piani, insomma, compreso quello della politica naturalmente, all'esito di oggi, ma certamente si chiude, ripeto, è simbolico, sono simboliche le morti politiche del 1980, Giorgio Amendola e Pietro Nenni, è simbolico il passaggio, insomma, dal psi di Pietro Nenni al psi di Bettino Craxi, che è una mutazione, che sarà una mutazione genetica nel corso degli anni 80, insomma, gli anni 80 sono poi gli anni della Milano da bere e così via, insomma, gli anni di incubazione del processo che esplode a Tangentopoli e che mi sembra abbia solo cambiato veste, forma e non sostanza, anzi per certi versi abbia delle caratteristiche ancora più degenerative di quello degli anni 80. Grazie professore. Grazie a voi.